24 mattino. Eccoci qua rientrati, le 8 e 18 minuti, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, parliamo un po' di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie. Da Trento. Non direttamente, ma quasi, insomma, con il ritardo che ha portato ieri il treno, ti lascio immaginare. Subito iniziamo con le lamentele. Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie, ci sta ascoltando, prende nota. Non credo che svelo, che alzi il velo su una pratica non diffusa nel nostro paese, quella del ritardo dei treni. E allora, bene, ha preso veramente nota e riceveremo. Speriamo ovviamente di no, oggi magari smentita. Buongiorno. Allora, buongiorno Deborah Rosciani. Ieri parlavamo di saldi, oggi parliamo di spesa. Sei diventata addicted, come dicevamo, in due giorni. Eccoci qua. Ma sai com'è? Di necessità virtù, come si diceva una volta. Di necessità si fa virtù, come si diceva una volta. Oggi i consumatori alle prese con i disagi della crisi economica si ingegnano, le pensano tutte per far quadrare i conti di tutti. Il più importante è il conto della spesa, che rappresenta per molte famiglie la prima voce del bilancio familiare. Lo ricorderete peraltro proprio dal microfono di Soldi e Dintorni. Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato quei siti di comparazione dei prezzi dei supermercati più vicini a casa nostra. È un tema che affrontiamo spessissimo. E allora, le occasioni per risparmiare al supermercato o tra i banchi di frutta e verdura sono molte, ma siamo sicuri appunto di riconoscerle. Allora, questa mattina ne parliamo con una persona che è una vera esperta, Alessandro Di Pietro, conduttore e ideatore del programma Rai Occhio alla Spesa, in onda tutti i giorni. Alessandro, spero di non sbagliare gli orari, dalle 10.55 alle 11.55? Sei precisa come sempre. Alessandro, buongiorno, un po' arrabbiato perché l'abbiamo tirato giù dal letto, però dobbiamo per forza dare qualche indicazione ai nostri consumatori. Perché abbiamo tirato giù dal letto Alessandro Di Pietro? Perché con la Visa, che è uno dei più grandi player internazionali per quello che riguarda il mondo delle carte di debito e di credito, si sta facendo un po' un roadshow, un giro fra alcuni grandi centri commerciali del nostro paese per presentare questo decalogo della spesa intelligente, ma anche per così testare con mano, Alessandro, quali sono un po' le perplessità al supermercato da parte dei consumatori. Prima di presentare la vostra iniziativa, voi avete già presentato l'iniziativa in un grande centro commerciale di Milano. Che cosa è emerso da questo contatto diretto con la gente? Beh, è emerso la grande curiosità, attenzione, insomma, oggi fare la spesa è un piccolo problema ormai talmente diffuso in tutte le famiglie italiane che farla addirittura intelligente ha destato davvero grandissimo interesse, e quindi con un sintetico decalogo, 10 punti veloci così, ma le cose più pratiche, abbiamo visto che non solo la classica casalinga, ma anche la giovane coppia e perché no anche i ragazzi sono stati davvero molto attenti, e poi entrando nel supermercato, insomma, si vedeva dal loro comportamento che tentavano di seguire queste piccole norme, ma piccole ma importanti. Mm-hmm. Infatti adesso sicuramente li indichiamo, Alessandro. Lo dicevamo prima, questa è una campagna di Visa per incentivare l'uso della carta di credito, perché nel nostro paese invece si privilegia ancora largamente il contante. Questo è un aspetto che tocchi in questo decalogo? Sì, perché oggi, come insomma, è importantissimo il cosiddetto denaro di plastica, non solo per la praticità ma soprattutto per la sicurezza. Faccio un semplice e rapido esempio: abbiamo dei soldi nel borsellino, purtroppo viviamo in una società aggressiva, ci possono rubare il borsellino, possiamo perdere i soldi e così via, e quei soldi sono assolutamente ineluttabilmente persi, mentre la carta di credito, se si perde o ci viene rubata, basta bloccarla con una telefonata e assolutamente possiamo poi riaverla nel giro veramente di pochi giorni. Quindi sicurezza, praticità, soprattutto certezza di ciò che si spende, perché poi conservando lo scontrino abbiamo proprio tutte le voci, non solo, ma a fine mese possiamo avere il rapporto di quanto abbiamo speso, dove abbiamo speso e con quale categoria merceologica noi abbiamo abbiamo speso, e questo è molto importante. Tornando agli altri suggerimenti, alle altre indicazioni che vengono formulate nel decalogo della spesa intelligente, naturalmente un occhio di riguardo è riservato anche, come dire, all'atteggiamento preventivo da utilizzare prima di entrare al supermercato. Molto spesso non facciamo la lista di quello che realmente ci serve. Alessandro, può sembrare un suggerimento molto banale, molto scontato, invece per il risparmio è molto utile. È essenziale. Fare una ricognizione in cucina o nella nostra casa e vedere cosa serve, appuntarselo e acquistare solo ed esclusivamente ciò che serve, ciò che abbiamo registrato nella nostra casa da acquistare. Questo è essenziale, perché non v'è dubbio che qualsiasi consumatore che entra in un supermercato viene immediatamente coinvolto, coinvolto nelle cosiddette strategie assolutamente legittime, strategie di vendita del supermercato, e quindi si entra con l'intenzione di acquistare 5 cose, arriviamo alla cassa e ne abbiamo prese 50. È inesorabile. Questo succede soprattutto al consumatore uomo e quindi indubbiamente. Però farsi la lista della spesa e entrare nel supermercato e rispettare quella lista è molto importante. Poi c'è una piccola ma grande attenzione che bisogna avere: andare a fare la spesa sempre a stomaco vuoto. Questo è troppo divertente, infatti lì volevo arrivare. A stomaco pieno, perché? Perché quando si ha appetito, quando si ha fame, si è più tentati, scattano le voglie e quindi si acquista di più, non soltanto nella quantità dello stesso prodotto, ma anche come numero di prodotti. È così. Allora Alessandro, tra l'altro ci rimane un minuto di tempo, non abbiamo ancora molto spazio per andare a descrivere tutti gli altri punti di questo decalogo. C'è la scelta del supermercato di fiducia. Questo suggerimento mi ha stupito, perché in realtà noi suggeriamo spesso invece di guardarsi un po' più intorno e così di approfittare anche dell'enorme concorrenza. Perché? Questo è vero in teoria, ma ormai sappiamo perfettamente che il supermercato determina la fascia dei prezzi, quindi lo stesso prodotto, grosso modo, salvo qualche piccolo decimale, lo possiamo trovare allo stesso prezzo in tutti i supermercati. Invece andare nello stesso supermercato si ha una familiarità e quindi sappiamo dove trovare quel prodotto, conosciamo sempre la storia di quel prodotto e anche la storia del prezzo di quel prodotto, e quindi se per caso aumenta in maniera macroscopica ce ne accorgiamo subito. Non veniamo dispersi a cercare, non perdiamo tempo a cercare i prodotti, e quindi sappiamo dove andare, quindi una spesa consapevole, una spesa mirata, seguendo la lista della spesa. Alessandro, ti lasciamo riposare in questa giornata di festa. Grazie molte ad Alessandro Di Pietro, conduttore e direttore del programma TV Occhio alla Spesa, che ha elaborato con la collaborazione di Visa anche questo decalogo della spesa intelligente. Io invece ad Alessandro Milan volevo dire che il punto che mi piace di più è il punto 10: velocizzate i vostri acquisti e dedicate il tempo libero a quello che vi piace. Ah, va bene, va bene. E allora, grazie Deborah Lociani. Che a Salvadanaio continuo su questi temi e mi occupo oggi di bilancio familiare. Ah, benissimo. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano: continuano senza sosta le ricerche dell'Airbus dell'Air France disperso nell'Atlantico con 228 persone a bordo. Un pilota della compagnia brasiliana TAM, sorvolando l'oceano, ha avvistato diversi punti di colore arancione identificati come possibili fuochi. Ricordiamo che tra i passeggeri dell'aereo partito da Rio de Janeiro diretto a Parigi c'erano 10 italiani. In Italia prosegue lo scontro politico a 4 giorni dal voto. Ieri sera, in una nota, Palazzo Chigi precisa che sui voli di Stato Berlusconi ha agito in piena legittimità. Il riferimento è un volo del maggio 2008 che ha portato nella dimora del Premier in Sardegna il cantante Mariano Apicella. L'opposizione attacca, la Procura di Roma ha preso tempo per decidere al riguardo. Intanto il capo dello Stato Napolitano, nel messaggio per la festa della Repubblica, invoca maggiore coesione sociale e nazionale nel Paese per far fronte alla crisi e alle tensioni che scuotono il mondo. Con l'arrivo di circa 300 paia di scarpe speciali è ripresa da ieri sera la raccolta dei rifiuti a Palermo dopo la protesta dei dipendenti della ex municipalizzata che gestisce la nettezza urbana. Entro oggi arriveranno altri mezzi, in una settimana si tornerà alla normalità, assicura il capo della Protezione Civile Bertolaso. E vi ricordo che ne parleremo tra poco alle 8:45. E infine migliaia di automobilisti multati a causa di decine di autovelox clonati e sistemati in 74 comuni d'Italia, lo ha scoperto la Guardia di Finanza. Sono circa 82.000 le multe per eccesso di velocità che potrebbero essere annullate, per un totale di oltre 11 milioni di euro. Tutto questo alle 8:34 minuti. E allora, 4 giorni dal voto, come detto, cosa c'è di politica in Italia? Si parla di economia? Poco. Si parla, che ne so, di politiche per le imprese, la famiglia, che ne so, di politica estera, questo quasi mai, insomma. No, si parla soprattutto anche oggi di veline, velone, foto che ci sono ma che gli italiani vorrebbero vedere ma che forse non vedranno, di foto sequestrate, di denunce del caso Noemi e di quant'altro, insomma. Io saluto Stefano Folli, buongiorno Stefano. Buongiorno. Stefano Folli, sapete, il Sole 24 Ore, insomma, l'analista politico secondo me più acuto, non lo dico io, di quello che succede in Italia. Ti chiedo Stefano, è con che sentimento, con stupore, sgomento, curiosità, sorpresa che assiste a una campagna elettorale politica di cui politica c'è veramente poco in Italia? Ma sorpresa non tanto, perché purtroppo seguo da molti anni le campagne elettorali e devo dire che non c'è mai fine al peggio, insomma. Quest'anno effettivamente abbiamo un po' raggiunto dei punti credo più bassi, ma non perché si sia parlato soltanto di veline, ma perché davvero classe politica, un po' tutti, questo non c'è nessuno veramente innocente, un po' tutti non sono mai riusciti a portare il discorso, a catturare l'attenzione dell'opinione pubblica su questioni che effettivamente riguardano l'Europa, riguardano il nostro paese rispetto all'Europa. Si andrà a votare fra pochi giorni senza sapere esattamente che cosa votiamo, cioè qual è il senso di questa Europa a cui diciamo di voler appartenere e effettivamente apparteniamo. E questo francamente è un po' sconfortante. Tra l'altro tu, come hai ribadito adesso, ma la scrivi anche oggi sul Sole 24 Ore, dici chiaramente non ci sono innocenti, nessuno può dirsi innocente, nessuno può atteggiarsi a vittima. Per esempio, tu scrivi, se Berlusconi avesse con umiltà magari risposto alle cosiddette 10 domande, insomma avesse fatto chiarezza, quelle che Repubblica gli ha posto da tempo, forse sì, si sarebbero chiarite molte cose, non si sarebbe montata tutta questa guerra. Io sono convinto che Io non mi sono mai sentito di esprimere delle condanne su comportamenti che magari non sono affatto colpevoli, ma sono magari un po' inappropriati. Però mi sarebbe piaciuto molta chiarezza. Chiarezza rispetto a degli interrogativi che l'opinione pubblica si è posta. Bastava, io credo, affrontare la questione con una certa trasparenza e dare queste risposte. Tutto sommato non credo che se davvero non c'era, come io penso alla fine, che non ci siano stati comportamenti davvero debolevoli, io penso che sarebbe stato possibile evitare questo braccio di ferro con la stampa, questi attacchi ai giornali che fanno sempre un pessimo effetto, ma soprattutto che poi se vogliamo le cose in proiezione internazionale sono assolutamente intollerabili visti dall'estero. E a questo proposito Stefano, perché con noi c'è anche appunto un decano dei giornalisti della stampa estera che introduco tra poco, perché lo scontro soprattutto con la stampa estera c'è stato, ieri Berlusconi ha usato parole molto dure che abbiamo ascoltato in CR24 e brevemente voglio fare riascoltare, così introduco anche il nostro secondo ospite. Sentite cosa ha detto ieri Berlusconi intervenendo alla RAI, credo il programma di Barbara Palombelli, sulla stampa estera. Sono in collegamento diretto con i giornali della sinistra italiana che fanno una azione di spinta per ottenere attenzione alle nostre vicende viste dalla loro parte. Sono proprio cose ispirate, insufflate. Sono cose insufflate, il Times è stato durissimo, ha detto cade la maschera del clown, eccetera, ha usato parole molto dure, il libertino Berlusconi che inganna gli italiani. Voglio salutare Tobias Spiller, buongiorno. Tobias Spiller è un decano appunto dei cronisti, dei giornalisti esteri in Italia, giornalista della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Allora, che ne pensa Piller di, insomma, di tutta questa vicenda vista dall'estero? Ha davvero una prospettiva internazionale anche negativa per il nostro paese? Certamente ci sono pochi paesi dove c'è tanta incomunicabilità tra giornalisti e governo, e dall'altro anche dove c'è un'immagine tanto negativa del primo ministro, come succede adesso in Italia. Ma la situazione viene da molto lontano, perché Berlusconi è bravissimo come pubblicitario, come una persona che ha la sensibilità per quelle cose che vuole la gente, ma non è uno che comunica i fatti duri con i giornalisti, e infatti non ha relazioni con la stampa estera o con giornalisti, con molti giornalisti stranieri. Abbiamo anche visto in passato dove poi ha fatto venire dei giornalisti pure dall'estero, e poi è stato anche preso in giro, fregato da giornalisti che hanno sfruttato la situazione per abusarne, perché tanto pensavano di vederlo solo una volta. Ma in quel senso certamente si sono creati mondi molto molto diversi. Se ci sono giornalisti che non conoscono Berlusconi, non l'hanno mai visto da vicino, certamente non è solo colpa di questi giornalisti, perché Berlusconi tanto dal 2000 non ha più fatto un appuntamento ufficialmente per la stampa. Con la stampa estera. C'è questa questione, insomma, Berlusconi, insomma, attaccato, risponde con altrettanto attacco. Ecco, la questione della stampa estera, dice, manipolata, insufflata dalla stampa di sinistra in Italia. Cos'è un'accusa? Tra l'altro lei è stato anche, insomma, il presidente dell'associazione stampa estera di tutti i giornalisti. È un'accusa che viene un'accusa come grave, oppure un'accusa che, insomma, lascia un po' il tempo che trova? Io lo metto nel quadro della campagna elettorale, diciamo. Certamente i giornalisti stranieri non si fanno dettare i loro articoli da colleghi italiani. Non succede che conoscono dei colleghi italiani. E poi certamente tutti questi articoli anche verso l'estero rispecchiano la situazione in Italia, anche qualche volta il modo di fare giornalismo in Italia. Tanti di noi vengono da paesi dove ogni settimana, ogni tot di settimane, si vede anche i capi del governo in una conferenza stampa più grande. Vedete invece a Palazzo Chigi c'è una saletta di 32 posti, no? E molto spazio per la televisione. Certamente lì non è possibile che vadano tanti giornalisti esteri. Poi anche devono seguire tanti temi, e così non possono aspettare giorni e forse Berlusconi passa, o forse no, perché ci sono invece i specialisti italiani che stanno lì tutto il giorno e possono anche aspettarci. Sono un giornalista estero e proprio da solo a seguire tutta Italia, quindi non fa questo investimento. Ma poi vanno a sentire e vedere Berlusconi in eventi pubblici ogni tanto. Certamente questo è chiaro. Ma in un ufficio stampa di un governo inglese, tedesco, francese c'è uno staff abbastanza grande, così si trova anche delle risposte. In Italia c'è di solito un portavoce e qualche collaboratore. Insomma, c'è meno collegamento, insomma, sì, con l'istituzione. Io, Stefano Folli, la domanda è questa. È gossip? Mi ha molto colpito vedere in mezz'ora con Lucia Annunziata, con il ministro Maroni, con Lucia Annunziata che continuava a fare domande sulla questione delle foto, insomma, di quelle che erano i resoconti di cui sono pieni i giornali, straboccano in questi giorni, e Maroni continuava a rispondere: ma non parliamo di gossip, se vuole parlare di gossip parliamo, cambi pure ospite. Allora, è gossip o è politica, è una cosa di interesse pubblico quello che leggiamo sui giornali? Anche il gossip, però non si può certo dire che questo sia gossip, cioè quello che riguarda i comportamenti di uomini di altissimo profilo pubblico come il Presidente del Consiglio fa parte, diciamo, del dibattito e delle domande che un paese si può porre rispetto a chi lo governa. Quindi poi questa è, diciamo, la risposta se è o non è gossip. Poi se la domanda è sono comportamenti deplorevoli, addirittura colpevoli oppure no, questo non lo sappiamo, ma è per questo che occorre dare alcune risposte, mentre invece qui stiamo creando un groviglio sempre più intricato. Qui ha ragione perfettamente il collega della stampa estera, ha perfettamente ragione, qui manca una comunicazione. È mancata sulla stampa internazionale in modo clamoroso e non ha senso dire la responsabilità è dei giornali di sinistra che ispirano la stampa straniera. La questione invece è esattamente questa, se c'è una comunicazione oppure se non c'è. Purtroppo in questi anni non c'è stata una comunicazione, come non c'è stata la volontà di rispondere in maniera trasparente ad alcune questioni che la sceglieria marcire sono cresciute, sono anche diventate gossip naturalmente, in un grande calderone in cui c'è di tutto, e alla fine siamo qui a discutere a 3 giorni dalle elezioni perché non si parla di Europa, di politica, ma si parla certo. Di questo. L'ultima questione, Stefano, prima di chiudere, è la questione insomma del volo di Stato. Abbiamo sentito, nel senso che ricordiamo tutti la vicenda legata a Mastella e Rutelli, allora finì in prima pagina, credo, sull'Espresso per un volo di Stato col figlio portato al Gran Premio di Monza. È una questione un po' diversa, sì. Credo che il Presidente del Consiglio debba volare su voli di Stato anche quando va in vacanza per motivi evidenti di sicurezza, quindi e può portare sugli aerei anche degli ospiti, credo io. Insomma, quella era una questione diversa, no? Era una questione di un uso di un aereo di Stato per una cosa che poteva essere considerata non istituzionale, non ricordo esattamente. Comunque mi sembra una cosa diversa. È giusto che ci sia un'indagine, anche qui nascondere le fotografie dell'aeroporto di Olbia, per esempio, è stato giusto, è stato sbagliato. A me sembra un po' strano, ecco, francamente, e tanto è vero che poi esistono delle altre fotografie che stanno uscendo sui siti internazionali, quindi è un altro pasticcio che si poteva probabilmente evitare. In ogni caso, a 4 giorni dal voto, questo è, io ringrazio Stefano Folli del Sole 24 Ore e ringrazio ovviamente anche Tobias Spiller, giornalista, corrispondente a Frankfurter Allgemeine Zeitung in Italia. 8:48 minuti, e allora l'ultima parte di 24 mattino, andiamo a cercare di capire cosa succede a Palermo, dove ieri è arrivato anche il sottosegretario, il capo della protezione civile Bertolaso, che ha detto nel giro di 7 giorni la situazione tornerà alla normalità, insomma verranno tolti i sacchi di rifiuti, si comincia alla raccolta da ieri. C'è da dire che oggi ci sono molti articoli che spiegano insomma quello che è per esempio il buco dei conti dell'AMIA, l'ex municipalizzata che gestisce la nettezza urbana, per esempio Giuseppe Oddo sul Sole 24 Ore, non è neanche la prima volta, ne scrisse anche qualche tempo fa, debiti per 100 milioni di euro, un bilancio scomparso. E poi le assunzioni, oggi leggo anche Lirio Abbate nella sua corrispondenza da Palermo sulla Stampa, i netturbini a Palermo sono 2700, una gran massa di operai che supera i fabbisogni della città, che ha pure il potere di mettere in ginocchio i palermitani per i disagi che provocano i cittadini. Alla vigilia delle elezioni regionali del 2008 all'AMIA sono stati assunti gli ultimi 800 spazzini. Qualche anno prima per le comunali un altro gruppetto aveva fatto il proprio ingresso in azienda, sempre per chiamata diretta. Io voglio salutare Mimmo Milazzo, buongiorno, il segretario provinciale della CISL, tra l'altro. Milazzo, buongiorno. Buongiorno a lei. C'è anche con noi Davide Faraone, che è deputato del PD nel Parlamento regionale. Mimmo Milazzo, le chiedo innanzitutto le accuse che ci sono sui giornali, insomma, su gli spazzini, come vengono definiti volgarmente, insomma, sappiamo che il termine è un altro, ma a dire un esercito di pressione quasi, che sono tantissimi, che esercitano una forza anche molto forte in azienda. Per carità, gli operatori ecologici, obiettivamente il numero è in linea rispetto anche alle altre città d'Italia con la stessa parametrazione di popolazione, possono essere un centinaio in più, bene che vada in un certo senso. Il problema reale è che la precedente gestione dell'AMIA ha creato, come lei ha ben detto, un buco enorme che ammontava a 150 milioni di euro. Il recente consiglio di amministrazione ha internalizzato molti servizi, diciamo che ha fatto un buon lavoro, ha riportato i conti con un disavanzo di circa 100 milioni di euro, 105 per la verità, ma la stessa azienda vanta crediti anche da enti pubblici, sì, da ATO, per circa 90 milioni di euro. E però Milazzo, le chiedo, perché sempre l'articolo di Liri Abbate in realtà va un po' più nel profondo, dice: sul finire degli anni 80 non dimentichiamo che più di 100 netturbini finirono sotto inchiesta perché usavano l'azienda come una cosa loro, picchiavano i dirigenti, si assentavano dal lavoro. Questi sono atti intollerabili, noi riteniamo invece che i dipendenti dell'azienda sono capaci, hanno delle buone maestranze. Il problema è tutto strutturale ed ecco perché noi ieri in prefettura, assieme a CGIL e UIL, abbiamo chiesto un piano industriale serio, cioè che guardi alla reale realtà della città. Basti ipotizzare che il parco macchine è ridotto al lumicino, oltre il 60% dei mezzi è inefficiente proprio per la crisi, sì, di liquidità della stessa azienda. Quindi questa cosa tra l'altro è incredibile vedendo i conti. Io, Davide Faraone, buongiorno, è con noi. Faraone. Sì, ci sente, ecco, deputato, sì, regionale, capogruppo anche al PD, credo, al Consiglio Comunale di Palermo. Sì, sì, sì, buongiorno. È uno di quelli che ha denunciato spesso quei buchi nei conti dell'AMIA, buchi che sono tra l'altro, credo, anche sotto indagine da parte della Procura. Insomma, si è letto molto di viaggi anche all'estero da parte di alcuni dirigenti con conti molto alti, che sarebbero ora sotto l'attenzione ovviamente della Procura. È lì secondo lei il disastro che si è creato dal punto di vista dei conti, che ora si vede anche coi sacchi dell'immondizia a Palermo? Sì, intanto bisogna premettere che l'azienda è stata gestita da vertici che sono stati e sono fortemente politicizzati, quindi non è stata gestita con un patrimonio. Non è una notizia in Italia, purtroppo, questa. Non è una notizia, però qui poi questo ha influenzato molto quello che è successo successivamente, nel senso che proprio in virtù della eccessiva politicizzazione sono state realizzate assunzioni, sono stati gestiti straordinari, è stata gestita e fatta una politica del personale che portava più alla costruzione del consenso che all'efficienza del servizio. Un esempio su tutto, la scelta di fare quel provvedimento che io reputo medievale, di far andare in pensione i padri e sostituirli con i figli. Che è stato fatto così? Sì, se immaginate 500 persone che sono andate in pensione, se in questo momento di crisi e di eccessivo personale fosse stato fatto il provvedimento di accompagnarli alla pensione, oggi avremmo 500 dipendenti in meno e la crisi finanziaria dell'AMIA non vi sarebbe. E invece, come è possibile? Il senatore Galioto, il senatore del PDL. Vabbè, insomma, questo che però purtroppo non è qui, insomma, a replicare, che è, voglio ricordare, è l'ex presidente appunto dell'AMIA. Questo è stato, lei dice, è stato fatto perché? Per chiamata diretta, sono questi il modo di assunzione, cioè che, per cui è stato possibile questa cosa, secondo lei? In parte è questa la chiamata diretta, la sostituzione del padre figlio. In parte è stata proprio una chiamata diretta con selezioni affidate a società di lavoro integrale, stiamo parlando sempre di una società intero capitale pubblico, affidava una selezione a società di lavoro interinale anonime, che pubblicavano avvisi anonimi sui quotidiani, quindi non tutti i cittadini erano corrente che vi era questo tipo di selezione all'AMIA, perché era la società di lavoro interinale che si metteva in prima linea, informavano soltanto alcuni che oggi sono consiglieri comunali di Forza Italia o consiglieri di circoscrizione dell'UDC, persone note e fortemente politicizzate che poi sono state assunte, sulle quali oggi c'è anche un'indagine della Procura. Vabbè, perché lei fa tante dichiarazioni delle quali io purtroppo non ho gli elementi per controbattere, ma insomma invitato, io devo dire lei le dice con contezza, però si assume anche la responsabilità, certo, di quello che dice. Lo dico da mesi. Ma questo lo sappiamo, leggiamo sui giornali. Io devo concludere in un minuto. I sindacati, Milazzo, che questa cosa che ha detto Faraone, cioè che ha definito medievale, cioè dai padri il posto è passato ai figli, e i sindacati che hanno detto è così, le chiedo una conferma, e che lei mi dirà di no, ovviamente, ma no, che no, io le dico di sì. sì. Ah, mi dice, che hanno detto i sindacati? Attraverso un accordo aziendale che è stato sottoscritto dalle parti. Ma com'è possibile dal padre a figlio? Scusi. Perché ci sono delle norme contrattuali che hanno consentito ciò, anche se obiettivamente la cosa ha un certo rilievo. Cioè, in e beh, certo senso. Insomma, cioè ereditare il posto in una municipalizzata. No, stiamo parlando, ma lì è il consiglio comunale che deve dare le direttive. Quindi io ricordo all'onorevole Faraone, che lui conosce benissimo, che le aziende partecipate devono essere regolamentate le procedure di assunzione, la competenza del Consiglio Comunale. Quindi lì c'è una carenza strutturale dell'organo di controllo. Io non voglio difendere la procedura, è una procedura in linea con le norme, discutibile o meno, io ho qualche perplessità, però sostanzialmente che io ritengo opportuno precisare che il numero dei dipendenti delle due aziende, cioè l'area, lei dice, sono giusti, non sono eccessivi. Va bene, io mi devo fermare qui Milazzo, perché ho già sforato di 20 secondi, ma vi ringrazio. Sul tema credo torneremo, perché è molto interessante anche da approfondire quello che ci ha detto Faraone, insomma il passaggio da padre in figlio del lavoro. Un po' mi inquieta, un po' mi fa sorridere. In ogni caso, ci fermiamo qui. Tra poco il nostro direttore Gianfranco Fabi farà un altro speciale sull'economia, economia in pagine, insomma l'economia nei libri, eccetera. E domani torna Giuliano Ferrara, domani torniamo anche noi, ovviamente alla stessa ora con 24 Mattino. A domani.